later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago vengono a conoscenza di un caso di mala giustizia. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Lineare Verstärkung. No, Drago, dice di lineare Verstärkung. Deve esserci un significato. L'amplificazione lineare, cosa vorrà dire? Non ha senso, infatti. Siamo qui in una fabbrica di polli e galline. Cosa c'entra l'amplificazione lineare? No? Niente, non capisco le informazioni da. Guarda là. Cosa? Un tucano. Un tucano, che bello! Molto bello, ma come c'è finito qua? Quello è un caso di mala giustizia. Ma chi è? Questo è il pollo in sbattimento, ciao. Come mala giustizia? Il tucano non dovrebbe stare qui. Perché? È un errore giudiziario. No, come perché? Perché siamo in una fabbrica di polli? Poi non capisco però, credevo che voi polli foste tutti nati qua e quindi non ci fosse problema di sbagliare. No, come no? La maggior parte nascono qua. Le uova vengono deposte qua e si schiudono qua. Qua. No, scusate. Cos'è? No, sto imparando la lingua delle anatre. Perché, insomma, non si sa mai, no? Comunque vi dicevo, molti nascono qua, però ci sono anche casi di polli che arrivano da fuori, tutti in nero. Come in nero? Cosa in nero? Arrivano i camion carichi di polli stranieri, senza documenti, senza niente. E in un carico ci sarà stato anche un tucano, no? Ci siamo i tucani, i cormorani. Ho capito, però adesso lo lasceranno andare, no? Quando se ne accorgono, insomma. Andare? Ma figuriamoci. Prima che se ne accorgono del tucano, il tucano fa tempo a crepare. È morto. Ma no, ma povero tucano, ma come crepare? La crudeltà. Vabbè, ma scusate, povero tucano, credete che siano pochi i casi così di mala giustizia? Vabbè. Ce ne sono un mucchio, eh. Ma come fanno? Le retate prendono quello che... Quello che arriva, arriva. No, quando arriva, fanno i carichi in quei paesi lì, che non so dove arrivano. Tirano su tutto e magari c'è un tucano che era lì come un bamba in mezzo ai polli e tira su anche il tucano. Il cormorano, magari che è curioso, va lì e finisce nella gabbia. Intanto loro arrivano e quando arrivano, intanto devono passare in mezzo a una fila, a due file di polli. Due file di polli? Sì. Quando arrivano? E ce li guardiamo ben bene, li squadriamo da... dalla testa ai piedi e poi giù di beccate, no? Come in galera? Insomma, questo è il nostro territorio. Questi arrivano, non si sa da dove arrivano, cosa vogliono. Noi invece di aiutarli li beccate. Dici, siamo tutti spaesati. E noi li becchiamo. Anche perché, per dire, il tucano c'è un becco che, voglio dire... Appunto, quindi meglio beccarlo prima che ci becchi lui. Ma dai, ma a me dispiace per il tucano. Anche a me. Sto povero tucano. E guarda com'è triste, povero tucano. Quando assesa sul cuore, non consegue compreender. E a mente não faz questão. É triste per forza. E tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí. É sbattimento. E deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir. Não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós. Já parou de tocar, não? Tem um mundo a esperar por nós. O infinito do céu azul. Não, porque pode tocar, não? Pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua. Então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. No, perché poi vengono qua, si mettono a cantare. Il tucano poi, questo qua che arriva dal Brasile, canta come Bowie. Che poi questo si mette a cantare Life on Mars, Danky Dory. Cioè, si mettono a cantare canzoni glam. E non va bene. Bisogna farli smettere. La fabbrica di polli. Mentre la città dorme, un sottomondo di locali esclusivi aiuta il povero Homo sapiens sapiens bianco occidentale del XXI secolo ad arrivare un po' meno virtuoso all'alba di ogni giorno che inizia. Nonostante sia l'aspetto più rischioso di tutta la mia attività, occuparmi della sicurezza è la cosa che mi diverte di più. I buttafuori di un locale come il mio, 1500 paganti d'inverno ed estate con le piste all'aperto arriviamo anche al doppio, possono arrivare anche a essere 40, 50, un piccolo esercito. Ci sono alcuni stati africani dove con 50 mercenari riesci anche a farci un colpo di stato. In teoria tutta questa gente starebbe qui per garantire la mia tranquillità e quella dei miei clienti. In pratica seminano il terrore. Ogni notte la città dà da lavorare a centinaia di buttafuori e chi li assume non può andare tanto per il sottile. Quelli che lavorano per me sono il vomitatoio del mondo, balordi, pregiudicati, esaltati da palestra gonfi di anfetamine. Se scoppia una rissa, loro la ingigantiscono, se non c'è, la fomentano. Sono animati dai peggiori spiriti di rivalsa e di vendetta. Se un cliente litiga dentro al locale e poi se ne va, loro lo inseguono, lo circondano, lo sprangano. Ho dovuto dividerli in due squadre. Una raccata i clienti molesti dentro al locale e un'altra sta agli ingressi. Se non faccio così, se è la stessa persona che preleva un ubriaco dentro alla discoteca, lo porta fuori e poi non lo fa rientrare, la rissa può durare ore e un disgraziato può essere pestato da uno dei miei ragazzi 5-6 volte nel giro di una notte. Le denunce che ho preso per colpa loro non le conto più. Eppure mi piacciono. Mi piacciono perché non si sforzano mai di capire, di distinguere, di cercare un'alternativa. Per loro non c'è differenza tra una parola sbagliata e una rasoiata in faccia. È tutto irredimibile e ogni cosa fuori posto si lava solo nel sangue. Grazie a loro, il mare di cazzate che allestisco qui dentro è percorso da un profondo senso di terrore. Non lo sanno, questi bufali idioti, di essere l'unico vero legame tra le mie notti e l'assoluto. Il pollo per eccellenza lo vedete per strada. La strada è piena di polli passanti. Notate come camminano. Non possono fare a meno di muovere la testa e il collo avanti e indietro. Camminano e muovono la testa avanti e indietro. Come se un sistema di leve, ingranaggi e pulegge all'interno del loro corpo collegasse i movimenti delle gambe con quelli del collo. Il movimento potrebbe addirittura essere biunivoco. Cioè, se ne prendi uno e gli muovi il collo avanti e indietro, le zampette si metteranno a camminare avanti e indietro, a vuoto. Si potrebbe addirittura sfruttare industrialmente questa cosa. Ad esempio per trasformare il moto rettilineo in moto rotatorio. In un mondo in cui non esistessero le bielle, si potrebbe prendere un pollo, metterlo sopra un rullo, poi con un congegno a stantuffi spingergli la testa avanti e indietro e così si metterebbe a camminare sopra il rullo, a vuoto. Bello, no? Chicken's eat crap. Perché voi il pollo lo mangiate dappertutto e sempre, eh? Mangiate il pollo nei ristoranti cinesi, il pollo alle mandorle, il pollo al limone, il pollo alla cacciatora, il pollo ripieno col limone infilato, il collo, il petto e la coscia. Ragazzi, che voi ve la godete, la coscettina, io la coscia, io l'ala. E tanto noi siamo qua a sbatterci, con lo sbattimento, col terrore, l'incubo della morte. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Bar Lumen.